come sempre, quindi faremo la pausa subito dopo la fine della relazione del professor Rutto e poi seguirà la discussione che mi auguro sarà come quella di ieri e di questa mattina, una discussione lunga e proficua per tutti. Lo scoppio della rivoluzione, il 22 marzo del 1848 a Venezia, colse di sorpresa numerosi stranieri che appartenevano non soltanto alla classe dei pubblici funzionari austriaci o dei militari, ma vi dimoravano come turisti, commercianti, mercanti, giornalisti, insegnanti, intellettuali. Nella città, raggiunta dalle notizie della concessione della Costituzione, la loro posizione fu all'inizio difficile. Già le prime manifestazioni, che il giorno successivo all'arrivo del vapore del Lloyd aveva portato da Trieste, della grande notizia dell'evento di Vienna, come si disse, si tennero in piazza San Marco, e queste manifestazioni che si tennero in piazza San Marco presero un carattere ostile agli stranieri, in particolare agli austriaci. Le voci, si parlò di un vespro siciliano, fecero precipitare gli austriaci nella preoccupazione più grande. Le famiglie tedesche e austriache più in vista, riferisce un testimone, cito testualmente, si affollavano quel pomeriggio stesso all'ufficio degli Lloyd austriaco per staccare un biglietto per un vapore che salpasse per qualche parte. Anche nei mesi seguenti, questi primi tempi della rivoluzione veneziana, era pericoloso, sempre questo testimone che parla, era pericoloso parlare tedesco in pubblico. Qualche gruppo di austriaco e qualche tedesco rimase comunque a Trieste, e nonostante l'aperta ostilità. Tra questi austriaci e tra questi tedeschi, che si fecero notare in quei mesi, si fece notare il poeta Heinrich Stieglitz. Heinrich Stieglitz era nato ad Arlsen il 22 febbraio del 1801. Si era trasferito a Venezia nel 1838, accompagnato dalla fame di una romantica tragedia d'amore. Dopo una giovinezza impetuosa, tutta piena di sogni d'arte, aveva sposato nel luglio del 1828 Carlotta Billhurst. Attraversò prima e dopo il matrimonio, a vicenda, momenti di esaltazione nei quali si sentiva chiamato a grandi capolavori e di sfiducia profonda in se stesso nei quali riconosceva di essere privo di forze e di genio. La poesia e la gloria furono gli unici ideali della sua vita, il fine ultimo di essa, come diceva, e la moglie lo spronava nella via dei suoi sogni e gli garantiva il successo. Ma questo non venne. Il 29 dicembre del 1834 Carlotta Billhurst si toglieva la vita con un colpo di pugnale nella illusione di riscuoterne l'energia e di fargli ritrovare se stesso, concetto tipicamente romantico, attraverso il dolore. Nella lettera d'addio al marito scrisse: «Spesso c'è una grande benedizione nel dolore ed essa scenderà su di te». I risultati di questo suicidio furono, e gli effetti furono appena percettibili. Stieglitz stesso parve prenderne coscienza e nei suoi anni italiani, dal 1838 al 50, si dedicò principalmente al giornalismo e divenne uno dei più autorevoli corrispondenti dall'Italia dell'Allgemeine Zeitung di Augsburg, liberale, ieri il professor della Peruta ne ha fatto cenno, e non soltanto lui, è un giornale molto diffuso ed influente. Nel 1939 Stieglitz era in Montenegro in Dalmazia per scrivere un libro sui paesi balcanici. Al suo ritorno, proprio per questi suoi interessi, conobbe Niccolò Tommaseo. La forte personalità del letterato dalmata, che da tempo occupava la scena intellettuale e letteraria italiana, piacque molto allo Stieglitz. Nonostante i numerosi malintesi che intercorsero negli anni successivi tra lui e lo stesso Tommaseo, Stieglitz si prese il compito di far conoscere al pubblico tedesco le opere del Tommaseo e il suo pensiero. Quindi ritroviamo nell'Allgemeine Zeitung tutta una lunga serie di articoli dove frequentemente il pensiero politico del Tommaseo viene ricordato e viene citato come un esempio di pensiero politico tra i più avanzati, tra i più progressisti in Italia. Ricordò sempre lo Stiglitz nella Allgemeine Zeitung che Tommaseo alla fine del 1947 aveva preso posizione contro il governo austriaco e ricorda anche sempre nell'Allgemeine Zeitung che nel dicembre del 1947 Tommaseo aveva tenuto un discorso a favore della libertà di stampa e contro il governo austriaco ricordò che aveva fatto circolare questo appello con una petizione rivolta all'imperatore. Le autorità utilizzarono questo avvenimento per trattenere Tommaseo, che venne mandato in carcere con Daniele Manin, che aveva sottoscritto la petizione. Fu un errore, naturalmente, che divenne palese nei primi giorni di marzo del 1848. La liberazione di Tommaseo e di Manin avvenne il 17 marzo del 1848 ai primi segni della rivoluzione. Sappiamo di certo che Stiglitz mise piede per primo nella cella del carcere del poeta dalmata e gli salutò con tutto l'entusiasmo possibile del suo animo romantico la rinascita della Repubblica di San Marco e si affrettò ad aderire alla compagnia delle guardie civiche guidata dallo stesso Tommaseo. Immediatamente Stiglitz considerò la necessità di informare l'opinione pubblica tedesca ed austriaca sugli scopi e gli ideali del movimento rivoluzionario italiano e di quello veneziano in particolare, e di riconciliare, sono parole sue, popoli al di qua e al di là delle Alpi. Nel marzo del 1848 apparve a Venezia una brossura, un piccolo opuscolo che ho avuto la fortuna di trovare sul mercato antiquario, in tedesco con traduzione italiana a fronte, dal titolo Germania, Austria e Italia, un indirizzo al Parlamento tedesco. Il testo venne pubblicato anche pochi giorni dopo dall'Allgemeine Zeitung. Su richiesta espressa dell'autore, come la redazione del giornale tenne a sottolineare in una nota in calce all'articolo stesso. Questo indirizzo al Parlamento tedesco di Stiglitz rappresenta un eco dello sdegno, e questa è probabilmente la causa prima di questo scritto, del dibattito nella chiesa di San Paolo a Francoforte, lo sdegno scatenatosi in Italia, soprattutto dopo i discorsi dei deputati austriaci Hübner, Wiesner e Suschelka all'Assemblea di Francoforte. Nella stessa assemblea di Francoforte. Nel corso di quelle sedute i deputati appena ricordati avevano rinfacciato ai rivoluzionari italiani il peccato, la colpa di inganno e simulazione. Accusavano lombardi e veneziani di aver dapprima salutato con giubilo le concessioni di Vienna per sollevarsi poi ugualmente contro l'Austria, contro un'Austria ormai costituzionale. Essi mettevano in guardia contro le pretese italiane sui paesi storici, tra virgolette, i paesi storici tedeschi, Trieste, il Tirolo meridionale e le coste adriatiche, e mettevano in evidenza che gli italiani tentavano di nascondere il loro odio ereditario contro tutto ciò che è tedesco con l'ingannevole discriminazione, sono ancora parole loro, tra austriaco e tedesco, per dividere ed indebolire le posizioni del movimento nazionale tedesco. Stiglitz fonda le sue argomentazioni in risposta a queste accuse principalmente da una prospettiva che potremmo definire morale. Dice Stiglitz: vogliamo rifiutare agli italiani la realizzazione della propria nazionalità sul loro proprio suolo, quando noi stessi siamo così vicini al raggiungimento di questo alto bene? E gli cerca più avanti di dimostrare, con citazioni dai giornali italiani, che in Italia il popolo, se ne parlava, se ne accennava questa mattina, distingue i tedeschi dagli austriaci e che il grido morte ai tedeschi vale neppure per gli austriaci in generale, ma unicamente per il dispotico governo di Vienna. Poi va al nocciolo della questione, la questione che il dibattito di Francoforte aveva provocato, vale a dire la questione sulle richieste territoriali di terre italiane che rivendicate dall'Austria. Ricordo ancora Trieste, l'Adriatico, il Sud Tirolo. Affermava che era tutto un equivoco, nel senso che i lombardi e veneziani, e qui giocava un po', lombardi e veneziani non erano disposti a dare impulso col loro, cito ancora, il loro coraggio battagliero, ad estendere le loro rivendicazioni sul territorio tedesco. Di certo però, aggiungeva ancora Stiglitz, Trieste e l'Adriatico erano terre italiane che non potevano essere abbandonate, alle quali gli italiani avrebbero difficilmente rinunciato. L'opuscolo e l'articolo ebbero grande risonanza nella stampa italiana e tedesca. L'articolo rispecchiava nelle sue linee essenziali fedelmente gli ideali di Tommaseo, quegli ideali che egli avrebbe trasmesso poi di cui si sarebbe fatto interprete nel suo giornale La Fratellanza dei Popoli. Le parole di Stiglitz vennero citate in diversi giornali italiani con parole di entusiasmo. In Germania invece questo opuscolo venne ridicolizzato e i più teneri parlarono unicamente di una utopia sentimentale. Riguardo a questo opuscolo, Stiglitz si era consultato con il Tommaseo, che dal 23 marzo del 48 rivestiva nel governo provvisorio di Venezia l'incarico di ministro dell'istruzione e della cultura. E come Tommaseo, Stiglitz lanciava speranze di una migliore comprensione tra i popoli, senza, esattamente come Tommaseo, senza disturbarsi a stabilire in maniera precisa la strada e i mezzi per la realizzazione di questa fratellanza dei popoli. Egli ricevette da Tommaseo pubblici plausi e ricevette da Tommaseo l'invito a recarsi a Francoforte per parlare all'assemblea a favore dell'Italia. Stiglitz pensava però che un simile atteggiamento potesse urtare l'opposizione dei delegati austriaci. Scrisse poi, lo ritroviamo in una lettera a Tommaseo, si può fare forse di più per le nostre idee con parole moderate e ponderate. Tuttavia anche le sue parole moderate e ponderate trovarono una dura risposta in Germania. La redazione dell'Allgemeine Zeitung non era assolutamente d'accordo con le argomentazioni di Stiglitz e aveva già lasciato intuire la sua posizione nella nota in calce al suo articolo che abbiamo ricordato. La risposta ufficiale venne il 9 giugno del 48, una risposta particolare che apparve in un supplemento dell'Allgemeine Zeitung, un lungo articolo firmato da Moritz Wagner, nel quale si palesano forti motivi nazionalistici, cito, contro il vago, meschino cosmopolitismo di Stiglitz. Wagner, l'autore di questo articolo, esalta l'egoismo nazionale come il grande movente di tutte le azioni umane. Prendeva subito ad esaminare la questione che più stava a cuore ai deputati francofortini, vale a dire quella che Wagner definisce la questione austro-italiana per eccellenza, che riguarda appunto il problema dell'Adriatico, di Trieste e dell'Adriatico. Wagner se la prende anche con il Tommaseo, che vuole costringere gli austriaci nei confini a loro imposti dalla natura. In altre parole, Tommaseo veniva accusato di considerare lo spartiacque delle Alpi come il futuro confine tra Italia ed Austria. Ma anche lo si accusava sia Tommaseo che Stiglitz, che di voler portare sotto l'Italia, sotto l'influenza italiana, i confini militari, la Dalmazia, l'Istria e Trieste. Le conseguenze sono le parole di Wagner per la futura potenza navale tedesca, per il ruolo che avrebbe dovuto rappresentare in Oriente un'Austria libera e unita alla Germania, avrebbero potuto essere disastrose nel caso di una tale rinuncia territoriale. Per non abbandonare tutti questi interessi vitali della Germania, per non dare un colpo mortale all'industria austriaca e ai suoi interessi in Alta Italia, l'Austria non poteva, secondo le parole di Wagner, lasciarsi cacciare dai territori suddetti. Wagner ostentava a chiare lettere i diritti di conquista dell'Austria in Italia. Tuttavia, chiudeva il suo articolo con una considerazione di carattere pragmatico. Si sarebbero dovuti attendere gli avvenimenti. L'Austria comunque, si diceva, poteva essere pronta a rinunciare alle sue sacrosante pretese su di un possedimento storico e centenario se la Lombardia si fosse fatta carico del debito pubblico nazionale austriaco e avesse mantenuto inalterati i rapporti commerciali anteriori al 48. La Venezia non poteva essere abbandonata, poteva essere indipendente, una posizione indipendente, ma confederata con l'Austria. Stiglitz, sappiamo, fu duramente colpito dalla risposta del giornale liberale tedesco. Rinunciò alla polemica, ma si adoperò tuttavia in seguito per aiutare, come disse, la causa rivoluzionaria ad illustrare ai lettori tedeschi gli avvenimenti rivoluzionari veneziani. Spostiamoci, lasciamo poi le considerazioni e le riflessioni alla fine della lettura di queste pagine, ci spostiamo e non di poco e andiamo a Praga, dove nelle settimane che precedettero gli avvenimenti praghesi, gli avvenimenti comunque del marzo del 1848, queste settimane furono caratterizzate da un vivo, quasi incredibile interesse per la questione nazionale italiana. Le notizie che giungevano dal nostro paese ebbero l'effetto di contagiare i circoli politici e nazionali di Praga, accendendone l'entusiasmo e stimolandone la riflessione. Sintomo di questo atteggiamento fu la grande simpatia con la quale vennero salutati e seguiti gli articoli che Karel Havlicek era andato pubblicando nel febbraio e nel marzo del 48 sui problemi italiani. Sensibilissimo, si definiva Havlicek allo spirito italiano, sosteneva che l'idea nazionale, così come si era sviluppata in Italia, era il naturale fondamento di qualsiasi movimento politico. I circoli governativi, in quei primi mesi del 48, erano preoccupati dei riflessi e delle influenze che i moti rivoluzionari italiani avevano sui gruppi politici in Boemia. Si affrettarono pertanto a intensificare e a rafforzare l'attività di censura al fine di impedire l'allargarsi e il diffondersi di idee non fondate sulla giustizia, come ebbe a scrivere il famigerato conte Sedlnitsky, capo della polizia austriaca a Praga, in una relazione all'imperatore del 22 febbraio del 48, in quanto, sono parole sue, era fondato il sospetto che gli sforzi per la conquista dei diritti nazionali e in special modo di quelli riguardanti l'uso della lingua ceca negli uffici e nelle scuole tendessero soprattutto a instaurare il predominio di questa lingua su quella tedesca e, seguendo l'esempio milanese, a rendere l'elemento tedesco odiato in Boemia. Riafforava per di più nelle autorità la paura di avvenimenti simili a quelli che avevano sconvolto la città di Praga negli anni 44 e 45 con le rivolte operaie soffocate nel sangue dal principe di Windischgrätz. I successi del movimento nazionale italiano, dunque, suscitarono grande entusiasmo, fomentando spirito di imitazione, iniziative, agitazioni. La notte del 14 febbraio del 1848, alcuni giorni dopo la concessione della Costituzione, nel Regno delle Due Sicilie, per le vie di Malastrana fu diffuso un manifesto stampato clandestinamente dal contenuto più che eloquente. Vivano i siciliani, boemi, notevole sottolineare, non parlano di ciechi, ma si parla di boemi, prendete esempio da loro e vedete cosa può fare, cosa può raggiungere un popolo quando vuole. Le onde degli avvenimenti italiani quindi increspavano la vita politica a Praga. Ancora il 21 febbraio la polizia rinveniva un buon numero di manifestini che riportavano il seguente appello. Boemi, andate avanti, vogliate la Costituzione come stanno ottenendo i popoli del sud, della monarchia e dell'Europa. Gli avvenimenti della rivoluzione viennese di marzo non dissolgono l'interesse del movimento politico ceco da quanto accade in Italia. L'archivio della luogotenenza, sede della polizia praghese, conserva fra gli altri un documento in lingua tedesca interessante per le nostre considerazioni. È un manifesto datato 20 marzo 1848 che dice: «L'Italia è insorta e combatte contro l'ingiusto e corrotto governo». Scusate. L'ingiusto e corrotto governo austriaco, il quale, indifferente di fronte alle voci piene di sofferenze che chiedono un miglior governo territoriale e il riconoscimento dei diritti nazionali, si sforza di soffocare una nobile e giusta insurrezione con mezzi crudeli e sacrifica noi ciechi ed altri popoli della monarchia a questo compito ingrato e ci costringe a versare il nostro sangue per calpestare la libertà altrui. Alcuni reggimenti ciechi hanno dovuto di già partire e raggiungere l'Italia, dove saranno considerati stranieri, dove saranno considerati tedeschi. È giunto un nuovo ordine, nuove reclute in gran parte sono state raccolte nei territori ciechi e inviate in quella terra di patiboli che è diventata l'Italia. Fratelli, ormai siamo alla fine di tutto il nostro sacrificarsi per il trono, il quale ci considera e tratta unicamente da schiavi. Ci opprime e ci infligge tasse crudeli. Gli italiani sono nostri fratelli, non combattiamo contro di loro, che sono infelici come noi, fatevi forza, coraggio, non tollerate altro, insorgete, unitevi e liberatevi da solo dall'oppressione dei signori della monarchia, datevi una Costituzione che significa eguaglianza, concordia, libertà. Il 20 marzo, insurrezione nazionale. L'incontro ideale tra le due rivoluzioni non avviene soltanto sul piano dell'ideale, delle rivendicazioni politiche nazionali, in una comune aspirazione a dare un significato, un inquadramento internazionale alla rivoluzione che si andava sviluppando. Ci fu un tentativo di instaurare un contatto diretto tra i due movimenti da parte del Comitato Nazionale Ceco, che scrisse una lettera al governo provvisorio di Milano, lettera che può essere collocata nella seconda metà del mese di aprile del 48. Questa lettera è conservata, lettera ufficiale del Comitato Nazionale, è conservata nel fondo Rieger dell'archivio del Museo Nazionale a Praga. È un documento estremamente interessante, sia perché ci dà modo di capire il senso che da parte ceca viene dato alle comuni aspirazioni dei due movimenti rivoluzionari, sia perché ci permette di testare il polso della vita politica praghese in quel periodo così cruciale. Vita politica caratterizzata allora da un'estrema moderazione intervenuta dopo gli entusiasmi rivoluzionari dei giorni di marzo, che può essere compresa facendo riferimento alla questione dell'unità tedesca, che allora pareva in via di risoluzione, e alla conseguente situazione particolare delle nazionalità soggette della monarchia asburgica, la cui politica dunque era fortemente condizionata da tale questione. La lettera in lingua tedesca, che porta il titolo Manifesto all'Assemblea Nazionale Manifesto dell'Assemblea Nazionale della Boemia al governo provvisorio di Milano, a Milano, negli archivi milanesi non sono riuscito a trovare, quindi non siamo neppure sicuri che venne poi inviata. Questa lettera, dicevo, inizia con una breve cronistoria degli avvenimenti praghesi del marzo del 48 e dell'atteggiamento assunto dal Comitato di San Venceslao, divenuto poi Comitato Nazionale. Vi leggiamo che alla caduta del sistema metternichiano le autorità di Praga, intimidite dagli avvenimenti di Germania, non avevano osato imporsi con la forza, vista anche la reazione calma e ordinata della popolazione. Pertanto il Comitato aveva steso due petizioni, una successiva all'altra, i cui punti erano stati interamente accolti e dalla Costituzione allora concessa e dalla patente del sovrano per la Boemia, del buon re Ferdinando, come scritto testualmente nella lettera, che così continua. Il buon re Ferdinando riuscì così ammirevolmente al nuovo governo di mantenere l'ordine e la calma, che non scorse neppure una goccia di sangue, neppure una finestra degli edifici pubblici venne rotta. Cari fratelli italiani, noi vi chiediamo perché non avete fatto altrettanto, perché avete provocato i militari con le barricate, perché li avete assaliti, visto poi che all'inizio erano riusciti a mantenere la calma. Perché avete rifiutato il 15 marzo le concessioni del nostro sovrano che potevano rendere felici voi esattamente come è accaduto a noi, che senza versamenti di sangue vi furono offerte libere istituzioni attraverso il cui sviluppo avremmo potuto unirci fiduciosi a fianco delle nazioni più libere e felici. Un paese in cui, come nel vostro, fioriscono agricoltura e industria, non può scegliere una miglior forma di governo di quello della monarchia costituzionale. Non lasciatevi illudere dalla nuova Repubblica francese e credete a noi moderati. Su quel paese grava una maledizione, è un paese che cade perennemente nell'anarchia e incita alla rivolta tutti i popoli d'Europa. Ritornate dunque alla nostra buona forma di governo, accecato governo accecato solo per un momento, come è già successo ad altre grandi potenze. Accettate dal nostro monarca l'amnistia e la protezione accordata a tutti noi con la libera Costituzione. Non crediate che un monarca, il quale non mantiene la parola data, tale è il re di Sardegna, possa darvi maggiore garanzie, e non allontanatevi da noi, fratelli vostri lontani. Anche noi siamo animati dal sentimento nazionale cieco e bene sapremo mantenerlo nell'alleanza con i popoli austriaci, come voi potrete fare con il vostro sentimento lombardo. Con le attuali libertà nessuno ci potrà obbligare a reprimerlo e tantomeno nessuno oserà farlo. Credeteci che lo intendiamo onestamente, non è per servilismo ma per nostra convinzione profonda che vi consigliamo di rimanere fedeli all'Austria, alla nuova metternicofoba Austria e di aderire con noi all'alleanza di tutti i suoi stati. Le sue istituzioni sono ora le più libere d'Europa e poggiano sulle più vaste basi di rappresentanza popolare. Le vostre manifatture hanno libera importazione e circa 6 milioni di persone vi garantiscono un ricco e cospicuo mercato. Le simpatie per i vostri fratelli italiani non possono né devono avere a soffrire. Al contrario, con le vostre libertà e le vostre utili leggi che favoriscono l'ordine e la pace, voi sarete un mirabile esempio per tutta l'Italia. Il governo, che si è mostrato pieno di buona volontà nei vostri riguardi, non vi ostacolerà allorché appronterete una libera Costituzione su base nazionale. Esso desidera la vostra separazione dall'Austria tanto poco quanto lo desideriamo noi e pertanto farà di tutto per concedervi le maggiori garanzie. La nostra deputazione, che conosce l'imperatore e la sua benevolenza d'animo nei riguardi dei suoi popoli, ci ha garantito questo. Ascoltate perciò la voce di un popolo fratello libero e credeteci, l'attuale governo austriaco non può tirarsi indietro e sarà nostra cura, comune alla vostra, che mai più le nostre istituzioni siano represse, cosa che vi garantiamo e giuriamo su questo invito a imitarci. Così il Comitato Nazionale chiude la sua lettera nella quale è possibile rintracciare molti dei temi e dei motivi che caratterizzano l'ideologia politica dell'austroslavismo, sostenuta in particolare dai cechi, che proprio in quei mesi andava prendendo forma e vigore e che tendeva a salvaguardare l'unità dell'impero ricostituito su base prevalentemente slava. Un tema particolare di questa lettera che abbiamo appena letto e illustrato conviene sottolineare e proporre l'attenzione, quella che fa riferimento alla Lombardia quale possibile regione di un'area, di un'entità politica economica che negli intendimenti della Prumyslová jednota, che è l'associazione industriale e commerciale di Praga, doveva coprire tutta l'area dell'impero asburgico, proiettarsi in direzione dei Balcani, garantire uno spazio economico sufficiente alle esigenze della nascente borghesia imprenditoriale commerciale ceca. È inutile sottolineare che questa unione industriale sosteneva con grande entusiasmo la politica austroslava del Comitato Nazionale e combatteva ogni tendenza che si manifestasse in Boemia in favore di una unione alla Germania. Siamo nel periodo delle discussioni al Costituente di Francoforte sulle dimensioni che avrebbe dovuto assumere la nuova Germania. Una grande Germania, leggiamo ancora in questa relazione dell'Unione Industriale Ceca, una grande Germania, comprendente anche l'Austria, avrebbe definitivamente compromesso le possibilità di sviluppo dell'industria austriaca e di quella ceca in particolare, schiacciate, come sarebbero state, dalla più forte e progredita industria dei paesi tedeschi. L'interesse per le cose italiane continuò a manifestarsi ancora per tutto il mese di maggio e di giugno, sino ai moti di Pentecoste del 12 giugno del 1848, che segnarono la fine dell'attività del Congresso Slavo di Praga, iniziata appena 10 giorni prima. I numerosi articoli che apparvero in quel periodo su tutti i giornali, da quelli moderati ai più radicali, testimoniano questo interesse. In seguito i problemi e le preoccupazioni politiche mutarono in Boemia e con esse in generale si affievolì l'entusiasmo per le notizie che arrivavano dal nostro paese, anche in relazione probabilmente agli insuccessi del nostro movimento nazionale. Solo la costituzione della torinese società italo-slava all'inizio del 49 parve riaccendere, come hanno dimostrato il Ceyhan e Venturi, interesse ed entusiasmo per le cose italiane e per una possibile alleanza auspicata soprattutto dai circoli radicali tra i due movimenti politico-nazionali. Ma l'esperienza rivoluzionaria 48esca stava per concludersi. La lettera, che per molti versi è interessante, anche perché si pone tra le voci conservatrici in quei mesi così caldi, mesi rivoluzionari così caldi e pieni di entusiasmo, deve essere in qualche modo giustificata e collocata nel momento storico particolare che sta vivendo la Boemia di allora. E per fare questo dobbiamo capire che cos'è stato l'austroslavismo e comprendere il perché l'austroslavismo sia risultata l'ideologia vincente durante la rivoluzione quarantottesca. L'austroslavismo è, prendiamo la definizione data da Lewis Nemir, è il tentativo di ricostituire o ricostruire l'Austria su base prevalentemente slava. Una ideologia politica che si afferma nel maggio e nel giugno del 1848, ma le cui origini possono essere rintracciate perlomeno un secolo innanzi. 1749, consigliata da Haugwitz, Maria degli Stati, la reazione nobiliare è notevole, diretta a Vienna e indiretta. Data la seconda metà del 1700, tutto quel fervore di iniziative culturali, quali la promozione di accademie e di studi sulla storia dello Stato ceco, le sue tradizioni, i suoi diritti di Stato. Tra le più famose ricordiamo la Societas Incognitorum di Olomouc, ma credo sia da sottolineare il fiorire di accademie, soprattutto di accademie nobiliari, quella del Conte Kinsky, la famosa Accademia dei Nobili, che avevano lo specifico compito di recuperare la storia giuridica del Regno di Boemia, di recuperare, uso un termine del Conte Kinsky, la tradizione statale ceca, elaborare, in altre parole, la dottrina dei diritti di Stato, di Staatsrecht, fondata sui privilegi della vecchia nobiltà boema. Siamo all'origine del patriottismo conservatore boemo, un patriottismo aristocratico conservatore. Pare che sono gli intellettuali che in qualche modo rispondono alle sollecitazioni nobiliari, uno su tutti, perché la sua influenza anche in Italia è notevole, Glasius Dobner, piarista, autore dei monumenti a storica boema, famosa soprattutto in Italia, perché Pietro Verri, nel scrivere la sua storia di Milano, si fonda quasi unicamente su questo lavoro. Ma ci sono altri intellettuali come Wallstein, che lavora a Roma, Voigt e la scuola di studi muratoriana, che si definisce tale, di Leghi, Ponte, di Zickelbauer. È notevole ricordare un fatto: questo patriottismo aristocratico conservatore ha una tradizione che è rintracciabile ancora nel 1848, e il conte Leo Thun è, credo, l'interprete più fedele di questa tradizione. Per capire ancora l'austroslavismo e la dimensione non nazionalistica, tra virgolette, della politica del Comitato Nazionale Ceco, dicevo, è la fortuna di un intellettuale ricordato solitamente come scienziato, come filosofo della scienza, ma anche pensatore politico o etico-politico, come amava definirsi, Bernard Bolzano. Winter, Edward Winter, è stato il primo a studiare Bolzano, a studiare le ideologie del giuseppinismo e a studiare soprattutto, un aspetto che l'ha particolarmente interessato, la fortuna di Bolzano nel primo Ottocento. Ideologo, lo definisce Winter, del giuseppinismo, ma anche maestro, guida morale di una generazione di intellettuali cechi che vennero esercitati alla tolleranza, all'antinazionalismo, a considerare il benessere dello Stato in una dimensione superiore, al di sopra dei più gretti interessi nazionalistici. Bolzano insegnava ai giovani allievi, Palatsky, František Palatsky, ogni settimana andava a trovare Bolzano, leggeva le sue pagine della storia della Boemia, Havlicek, tanto per fare i nomi più conosciuti anche ai non specialisti, andava a trovare Bolzano almeno una volta la settimana. Bolzano, dicevo, trasmette a questi intellettuali un concetto, un'idea di patria tipicamente settecentesca. La patria non è la patria della nazione, qui si recupera l'aspetto di la contrapposizione di Bolzano alle idee che Jungmann stava proponendo allora, in quegli anni, una interpretazione romantico-nazionalistica, una proposizione di ideali come quelli della Slovanska Gesellschaft, quella che i tedeschi definivano la Slavische Wechselseitigkeit. Bolzano invece insegna a questi intellettuali, che saranno così importanti nella primavera del 48, che la patria è il luogo dove si lavora per gli altri, per il benessere della comunità, per il benessere della società, e lavorando per il benessere della comunità e della società si lavora per il benessere dell'umanità intera. È giuseppinismo e cattolicesimo illuminato e idea patriottica settecentesca che si fondono in questa posizione. Dunque, a parte il momento nazionalistico di Jungmann, ricordiamolo, un momento unicamente di carattere letterario, la tradizione ceca presenta un patriottismo statale aristocratico conservatore e presenta un patriottismo legato a quella generazione di intellettuali come Palatsky, Havlicek ed altri, educati a valori razionali progressisti più che a quelli romantico-nazionalisti, pur sullo sfondo di una cultura letteraria che almeno negli anni 20-30, all'inizio degli anni 40, pare tutta permeata di slavismo, di concetti quali reciprocità slava e così via. La rivoluzione del 48 e nell'impero d'Austria, provocate dalla notizia degli avvenimenti di Parigi, assunse tra tutte quelle dell'Europa un carattere particolare per la molteplicità dei problemi che sollevò. molti dei quali erano già stati risolti in Europa con rivoluzioni precedenti. Agitazioni nei caffè, a Praga, nelle taverne, nelle strade, articoli infuocati della stampa che beffeggiano la censura, effervescenza a Budapest, riunione a Vienna della dieta della bassa Austria e così via. Qui salto, tanto gli avvenimenti sono ben conosciuti. Un tratto comune, comunque, che deve essere sottolineato è che non è, anche in questi primi giorni di effervescenza, non è alla rovina della monarchia che si mira. I liberali, gli stessi liberali, continueranno a rivolgersi all'imperatore per ottenere una costituzione o il diritto di prepararla, nulla di più. A Praga, come nelle altre città, come ricordavo poco sopra, tutte le classi della la società praghese entrarono in agitazione, dai nobili ai nobili liberali fino al popolino degli artigiani. Ma nonostante i miti della reciprocità slava, non vi fu alcuna palese opposizione o contrapposizione fra tedeschi e ceti nella città. Tutti inalberarono la stessa bandiera con lo stesso motto, Concordia Svornost, e tutti insieme acclamarono il testo di una petizione in cui si richiedeva l'istituzione di una dieta delle tre province della Boemia. Venivano in quella sede, in quella petizione, rivendicati i vecchi diritti di Stato, il riscatto della corvée, l'eguaglianza delle due lingue. La petizione dell'11 marzo del 1848 venne concessa da Vienna, tutte queste richieste vennero concesse da Vienna l'8 aprile, tanto che vennero indette delle elezioni per le elezioni della dieta. Il Comitato Nazionale responsabile delle elezioni era composta paritariamente da cechi e da tedeschi. Quindi una situazione che pare idilliaca, almeno dal punto di vista della questione nazionale del rapporto tra cechi e tedeschi. Ma ciò che contemporaneamente avveniva in Germania assumeva un carattere più vasto. Ad Heidelberg si era costituito un comitato dei patrioti tedeschi per preparare le elezioni al Parlamento di Francoforte, per stilare la Costituzione della nuova Germania e, come sappiamo, il problema che dovettero affrontare immediatamente fu quello di una grande Germania o una piccola Germania. Patrioti, i nazionalisti tedeschi, parvero in un primo tempo optare per la prima soluzione, che avrebbe comportato l'inglobamento nella nuova Germania di territori austriaci abitati da non tedeschi come la Boemia. Fece effetto soprattutto a Praga, ricordo il discorso di quello che veniva ritenuto un liberale moderato, Heinrich von Gagern, che invece aveva affermato in la dieta di Francoforte che il destino della Germania era ad Oriente, che i popoli non tedeschi dell'Austria non avevano alcun diritto storico per reclamare indipendenza o diritto. Il comitato di dei 50 invitò la personalità più importante, la personalità più eminente del mondo praghese, František Palacký, storico e intellettuale ad Heidelberg. Palacký rifiutò con una lettera divenuta presto celebre, che è divenuta anche manifesto dell'austroslavismo, l'ideologia vincente del movimento nazionale ceco. Questa, riassumendo i principali punti di questa lettera, la lettera era un appello alla storia che giustificava l'esistenza di uno Stato ceco nell'ambito di un impero d'Austria indipendente. Quali erano i motivi espressi? La popolazione, tanto per garantire l'indipendenza dello Stato ceco, ma all'interno di questo impero, la popolazione era in maggioranza ceca, di razza slava, però esistevano legami di fedeltà alla casa d'Asburgo e forse meno, sono parole di Palacký, nei confronti del Sacro Romano Impero. Palacký ribadiva ancora la peculiarità delle terre del Danubio, abitate da popoli non appartenenti ad un'unica razza, come tedeschi, c'erano certo sì tedeschi, ma c'erano molti slavi, molti magiari, latini e greci. La peculiarità doveva essere salvaguardata in quanto era minacciata da due imperi. Da una parte la Russia degli zar, che tendeva, parole ancora di Palacký, alla monarchia universale, e due, la futura Germania, che già rivendicava come suo il territorio della Boemia. Di fronte a questo duplice pericolo, l'Austria, ricostruita su basi prevalentemente slave, indipendente e forte, rappresentava una garanzia di indipendenza, libertà, autonomia, condizione necessaria per uno sviluppo futuro. E qui la famosa affermazione di Pavaschi, nell'interesse dell'Europa e dell'umanità, se non esistesse, occorrerebbe inventare l'Austria. Giocava poi in questa sua lettera Pavaschi una carta di carattere politico, affermando che serpeggiava in Germania uno spirito repubblicano, ma a lui e al mondo ceco questo non interessava. Per l'Austria la monarchia rappresentava e rimaneva indispensabile garanzia di libertà e di autonomia dei suoi diversi popoli. Ancora sono parole di Pavaschi: quale esca per la Russia un'Austria spezzettata in tante piccole repubbliche. La soluzione ideale per Pavaschi era evidentemente un parlé, due stati costituzionali, l'uno tedesco e magari repubblicano, l'altro austriaco e certamente monarchico, magari alleati in una sorta di Zollverein. I cechi aderirono con entusiasmo al messaggio del loro storico, del loro intellettuale. Evidentemente i tedeschi della Boemia no. E questi tedeschi della Boemia mandarono i loro rappresentanti all'assemblea costituente di Francoforte. Si verificava una spaccatura nel regno di Boemia in due gruppi, uno germanico e l'altro slavo. Il primo dava un'importanza maggiore all'ideale nazionale, l'altro al diritto storico, alla tradizione storica. Due gruppi che si sarebbero tosto affrontati ed odiati, in quanto il problema più grave sarebbe stato quello dei rapporti con la Germania. E lo si vide nei lavori del Congresso Slavo di Praga, convocato da Pavaschi per cementare l'elemento slavo della monarchia intorno ai valori che egli aveva espresso nella lettera al Comitato di Heidelberg, comune anche agli altri esponenti dell'intelligenza liberale ceca, da Havlicek, da Tomek, grande storico anche lui, da Rieger, era genero di Pavaschi, e anche radicali come Fritsch, che ricordiamo poi collaboratore del Calacol di Herzen, e anche un radicale socialisteggiante come Sabina. In breve, i rapporti tra i due gruppi etnici si esasperarono, e c'è una sorta di gioco tra Praga e Heidelberg. Sono tutti avvenimenti del maggio del 48 e dell'inizio di giugno del 48. Ricordiamo, tanto per dare così un po' il tono di quegli avvenimenti. 9 maggio del 48, le 36 città tedesche della Boemia contestano il diritto del Comitato Nazionale di parlare a nome di tutta la Boemia. Rispondono i cechi del cosiddetto Niemetsky Brod, o Vallo tedesco, grosso modo i Sudeti, affermando: non vogliamo essere abbandonati al nostro destino, non vogliamo l'unione della Boemia alla Confederazione Germanica. L'Allgemeine Zeitung, che abbiamo più volte ricordato, Stiglitz era corrispondente, l'11 maggio del 48 scrive: occorrono 10.000 uomini per tacitare la Boemia e per costringerla ad entrare nella futura Germania. Il 13 maggio a Francoforte il deputato Schilling: ritengo che se la Boemia non vuole convincersi ad entrare nella Confederazione tedesca, debba esservi costretta con la forza. E per sintetizzare, i tedeschi furono pronti, almeno i deputati francofortini, furono pronti a mettere la forza davanti al diritto, o il diritto storico davanti al diritto nazionale. Siamo verso la fine di maggio. Il delegato francofortino Jordan: è tempo di svegliarsi ormai, di svegliarsi per un sano egoismo nazionale, per dire al fine francamente che sopra ogni cosa c'è il benessere e l'onore della patria. Il nostro diritto è il diritto del più forte, il diritto del conquistatore. E il moderato Heinrich von Gagern, lo ricordavo poc'anzi, ma magari merita ripetere i suoi concetti, leggere testualmente la sua dichiarazione. Io domando, si chiede Harry von Gagern, possiamo noi nell'interesse nazionale abbandonare nell'avvenire le province non germaniche dell'Austria, a loro stesse al caso? Io ho concepito la meta del popolo tedesco come una grande missione di impero mondiale. E ancora, a quale unità dobbiamo aspirare? Si possano vivere conformemente al destino che ci è stato assegnato verso l'Oriente. Si possano riammettere quei popoli che lungo il Danubio non hanno né vocazione né diritto all'indipendenza come satelliti del nostro sistema planetario. Il 30 maggio, torniamo ai giornali, il Grand Bolton, che ieri è stato ricordato, più volte citato da Franco della Peruta, scrive, forse il Grand Bolton è il più obiettivo, meno ringhioso nei confronti dei diritti nazionali ciechi. Il Grand Bolton commenta il congresso slavo che doveva aprirsi due giorni dopo, il primo giugno del 48. Grand Bolton scrive: gli scopi del congresso slavo sono semplici utopie. I popoli che si incontrano a Praga non hanno interessi comuni. I cechi partecipano per ottenere uno statuto austroslavo. I polacchi non vogliono sentir parlare di unità, sovranità o di integrità dello Stato austriaco. Essi vengono a Praga nella speranza che i cechi possano servir loro alla liberazione della patria. L'idea, e qui era una notazione abbastanza centrata, l'idea di un congresso slavo è, centrata anche se maliziosa, è il prodotto di una dottrina filologica. Non ha fondamento realistico e pertanto non avrà esito alcuno. La posizione austroslava di Palacki è in questo contesto, in questo dibattito politico, in questa che ormai è diventata una lotta tra i due elementi della Boemia, sintetizza, credo, e ci spiega e ci giustifica anche l'austroslavismo e anche, a mio modo di vedere, quella lettera, è una prima lettura così reazionaria, è indirizzata al governo provvisorio di Milano, se non reazionaria, comunque poco rivoluzionaria. E giustifica in qualche modo questa lettera, l'ideologia che espressa l'esperienza storica del movimento nazionale ceco, e attraverso essa è possibile ripercorrere la storia ceca sino alle riforme teresiane, d'altra parte comprendere l'evoluzione politica dello stesso movimento nazionale ceco dopo il 48. Dei documenti, che abbiamo portato così all'attenzione, soprattutto quello della Unione degli Industriali Cechi, mi pare particolarmente significativo. L'unione con la Germania era impensabile, i prodotti della Boemia e dell'Austria non erano concorrenziali con quelli delle fabbriche degli stati tedeschi. L'Austria garantiva un grande mercato e soprattutto se l'Austria, qui la prospettiva non era tanto peregrina, avrebbe indirizzato nel suo futuro la sua espansione verso il sud-est europeo, un sud-est europeo slavo che avrebbe accettato volentieri prodotti provenienti dalla Boemia. E ancora, cosa che non abbiamo ricordato prima, ma presente in questa lettera, in questa dichiarazione dell'Unione Industriale Praghese, la Russia e il suo panslavismo sono da temersi. L'arretratezza, l'immobilismo, l'apatia di quel mondo coinvolgerebbero anche le nostre terre e le nostre industrie. Quella lettera finiva con viva e prosperi lo Stato austriaco. È una lettera di una borghesia piccola dal punto di vista quantitativo, una cosa che è curiosa da notare: tutti gli appartenenti all'Unione Industriale erano di nazionalità tedesca, avevano cognomi tedeschi, una borghesia che è cosciente della solidarietà economica con il complesso della monarchia. Dunque l'austroslavismo, ad una prima lettura, si presenta come un'ideologia moderata, se non conservatrice, ma che è comprensibile, speriamo di averlo così dimostrato, comprensibile, spiegabile, giustificabile dal punto di vista storico, facendo riferimento alla particolarità storica, geografica, culturale e nazionale della Boemia. Se è permesso fare una notazione di carattere storiografico, l'austroslavismo è stato sempre un'ideologia e un momento ingombrante per la storiografia ceca. Nessuno l'ha mai voluto studiare a fondo. Era ingombrante durante la Prima Repubblica, perché la storiografia della Prima Repubblica doveva in qualche modo giustificare l'esistenza di uno Stato nazionale che non era mai esistito, se non facendo riferimento, se si vuole, all'impero Gran Moravo, ma 1000 anni prima. E nel secondo dopoguerra, per motivi politico-ideologici ben evidenti. Che fosse una ideologia conservatrice, reazionaria, apparve subito, almeno così la giudicò Marx, negli articoli che riguardarono la Boemia del 1851 e 52, articoli nei quali definiva i ceti degli straccioni che avevano rovinato la rivoluzione. E soprattutto quegli straccioni, per citare la frase esatta, quegli straccioni di ceti che avevano salvato l'Austria dalla rivoluzione. Ma al di là dei giudizi di parte legati alle passioni di quegli anni e di quegli eventi, non può apparire chiaro che era un'ideologia perlomeno realistica e che rispondeva ai problemi storici, politici, sociali ed economici del regno di Boemia. Ne riprova il fatto che l'austroslavismo si radicalizzò negli anni successivi, dando luogo a quella corrente di austrofederalismo che segnò la vita politica ceca nei decenni successivi. Ancora prima dell'Ausgleich del 67, nel 66, un esponente politico ceco, Ricker, che abbiamo già ricordato, dichiarava che l'impero doveva essere conservato poiché vediamo comunque nella sua esistenza la garanzia della nostra esistenza nazionale e quella delle altre piccole nazioni che vi sono riunite. L'atteggiamento sarebbe cambiato dopo il 67, dopo l'Ausgleich, dopo il compromesso, quando assistiamo, anche una breve parentesi della vita politica ceca, e per la prima volta a manifestazioni di solidarietà slava. Palacki e Riger andranno al congresso panslavo di Mosca del 67 e prendendo una decisa posizione antitedesca e antimagiara. Ancora l'austrofederalismo degli anni 50, ma soprattutto 60 e 70 è una corrente politica, una corrente anche di pensiero che vede contrapposti i partiti dei giovani cechi al partito dei vecchi cechi. Ma questi due partiti si scontrano unicamente sulle forme e i gradi di autonomia nell'ambito del federalismo austriaco. Ho aggiunto qualche notazione dopo la discussione di ieri con sollecitata dalla relazione del professor Della Peruta. Ho parlato di austroslavismo, di austrofederalismo e credo si possa concludere facendo riferimento all'austromarxismo che si affermò in Austria con il congresso socialdemocratico di Heinfeld del 1888, quasi 101 anni fa, quando la socialdemocrazia si proclamò partito internazionale che non riconosceva alcuna distinzione di razza e di paese, tentando di cancellare, come con un colpo di spugna, i problemi nazionali che avevano condizionato la storia austriaca negli ultimi 40-50 anni. Suffragio universale, separazione Stato-Chiesa, laicità dell'insegnamento, soppressione dell'esercito, difesa della classe operaia. La richiesta del suffragio universale avvicinò alla socialdemocrazia giovani intellettuali ed anziani che si ricordavano ancora del 1848. Ma la questione nazionale, cacciata dalla porta, rientrava dalla finestra. Viktor Adler, la più notevole, a mio parere, intelligenza della socialdemocrazia austriaca, ritenne che di fronte alla frammentazione delle nazionalità dell'impero, la classe operaia potesse disperdere le sue forze. Lo Stato multinazionale non aveva analogia con altri Stati europei. Occorreva adattare il marxismo all'Austria, mantenere, garantire quel complesso territoriale nella sua interezza, condizione necessaria all'esistenza di un grande spazio economico in cui la classe operaia meglio potesse organizzare la propria difesa e preparare la conquista del potere. Grazie. ringrazio il relatore. Siamo partiti da Venezia e siamo finiti lontani attraverso tutta una serie di stazioni: Venezia, Francoforte, Praga, Milano, di nuovo Praga, Heidelberg con Francoforte dietro. E poi naturalmente un po' questa parentesi finale, conclusiva, su degli sviluppi cronologicamente successivi che riportano in fondo, lo diceva ieri anche della Peruta, all'eternità di certi problemi che non si possono cancellare. E quindi credo che materia di discussione ce ne sarà parecchio. Forse, se intanto prima della pausa una considerazione iniziale, Venezia è stato per la democrazia, in genere per la democrazia nazionale italiana quarantottesca, un crogiuolo che forse è stato per varie ragioni spesso trascurato e visto invece solo nella sua dimensione municipalistica. Roma è stato il concentrato, la Repubblica Romana della democrazia italiana. Venezia è stato invece il luogo nello stesso tempo più municipale e più aperto all'Europa. La ragione, perché in questa prospettiva è stata studiata forse poco, è che occorrevano conoscenze di lingue particolari per studiare la presenza di slavi del sud, ungheresi, tedeschi, in questo caso dal punto linguistico era più facile, che hanno operato a Venezia in questo periodo. E non è un caso che il primo studioso che ormai molti decenni fa ha richiamato l'attenzione degli italiani su questo problema è stato De Poli, uno storico di Fiume che conosceva l'ungherese. In anni più recenti su questo tema sono tornati uno storico sloveno di Trieste, Joshua Pirjevec, che ha studiato Tommaseo, e tutto il nucleo di rapporti di persone che stanno intorno a Tommaseo, e il nostro relatore di oggi, che ha la fortuna di conoscere il ceco e che quindi ha potuto anche studiare tutta questa serie di rapporti che legano Venezia a quella che successivamente con molta fortuna si sarebbe chiamata la Mitteleuropa. Ecco, allora incominciamo la discussione che può naturalmente anche andare avanti al di là di un'ora. Alcuni di noi hanno però, mi viene detto in questo momento, degli impegni per le sei, quindi se fosse possibile concludere, abbiamo circa un'ora e cinque minuti davanti, se fosse possibile concludere per quest'ora. Sì, già la parola sulla relazione? Sì. Aspetta, facciamo. Allora questo giro. Wenn es möglich ist, dann wäre ich dankbar, wenn noch zwei Dinge diskutiert, zumindest gefragt werden könnten von heute Morgen, weil also Herr Heidmann nicht mehr zu Wort gekommen ist am Schluss der Diskussion und wie mir gerade Herr Wanbruschka sagte, hatte Frau Natlatschen Fragen oder einige Fragen, die man dann entweder jetzt zu Beginn oder am Ende noch eben an Herrn Schmidt-Bergmann richten könnte. Machen. Es geht nochmal um die Frage also der Verallgemeinerungen Italien, Deutschland, die Italiener, die Deutschen, was von Herrn Dann angesprochen wurde heute. Ich meine, wir wissen natürlich, dass man sich vor Verallgemeinerungen hüten muss und wir sind da sehr kritisch, aber in der Zeit ist es eben großenteils nicht so gewesen und damit müssen wir uns abfinden, dass von den Tedeschi die Rede war und dass man Österreicher und Deutsche, Preußen, Bayern, Sachsen etc. in einen Topf wirft. Das muss man einfach eben als gegeben hinnehmen und das mit natürlich der kritischen Distanz, aber so dann auch zugrunde legen für historische Darstellungen zum Deutschland- bzw. Italienbild. Es ist ja im Übrigen weithin in Süd- und Osteuropa so gewesen, dass man die Deutschen sagte und die Österreicher im Wesentlichen oder auch die Kroaten und die Tschechen und was weiß ich noch alles meinte, gerade in den Gebieten, die rund um das KUK-Reich herum lag. In Rumänien zum Beispiel ist es so gewesen, bis hin zum Ersten Weltkrieg, dass das die breite Masse des Volkes als deutschen Nerns jeden ansah, der westliche Kleidung trug und nicht die Volkstracht. Ob das nur Deutsche, Österreicher, Tschechen, Italiener, Franzosen oder Engländer waren, das ist also überall so gewesen. Und dann wollte ich noch ein anderes sagen, direkt im Anschluss daran, die breite Masse des Volkes, sowas hat es ja doch auch gegeben. Wir haben immer nur von den Intellektuellen gesprochen, von der Elite, aber das Volk hat ja auch eine Vorstellung gehabt von den Deutschen beziehungsweise von den Italienern. Herr Andruschka zitierte ein Sprichwort, was er in, oder einen Ausdruck, ich glaube im Gespräch war es mal, in Tirol bestimmte Meinungen über die Italiener und umgekehrt. Es gibt zum Beispiel genau aus der Zeit, die wir behandeln hier, 20er, 30er, 40er Jahre, eine Sammlung von Sprichwörtern aus dem Gebiet von Verona. Ich weiß nicht genau, wie der Titel dieser Sammlung ist. Sprichwörter oder Redensarten der Bevölkerung so im Gebiet von Verona über die Tedeschi. Also man müsste doch auch so die, sagen wir mal, breite Masse des Volkes für die Zeit, soweit Quellen zur Verfügung stehen, daraufhin befragen, was sie für ein Bild eben von den Tedeschi gehabt haben. Also nicht nur die Elite, wir haben gewisse Quellen auch für die Unterschicht. Danke, Frau Nattlatzen. Ja, und vielleicht am Ende kommt Schmidt-Bergmann und dann fangen wir an. Nattlatzen, ich habe eine Frage, die vielleicht jemand von den Herren beantworten kann. Es handelt sich darum, Goethes Italienreise, seine Italienischkenntnisse, und jetzt habe ich mich gefragt, ob er das Neapolitanische verstanden hat, ob er die verschiedensten Dialekte verstanden hat. Wie haben die sich verständigt? War das Latein, Französisch? Hat er einen Übersetzer gebraucht? Konnte er überhaupt mit diesen Leuten kommunizieren? Wie hat die Kommunikation funktioniert zwischen Goethe, zwischen Heine, zwischen den deutschen Italienreisenden, die ein Italienisch konnten, aber nicht vielleicht alle Dialekte? Danke. Herr Schmidt-Bergmann. Ja, für Goethe kann man sagen, dass er also die italienische Hochsprache in Anführungsstrichen natürlich konnte, aber die Dialekte ist genau der Punkt, was Sie sagen, konnte er nicht zum großen Teil. Und da hat er in Neapel, wo er zu Besuch war, immer auch Übersetzer gehabt und hat sich dann über die italienische Hochsprache, Französisch und natürlich auch Deutsch als Verkehrssprache immer mit, also als mit Übersetzer sich bedient. Bei Heine bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, dass er eher kein Italienisch konnte. Und auch nicht so viel, also zu der Zeit auch versucht, der Kontakt aufzunehmen. Also bei Goethe kann man sagen, dass er die Dialekte, also Neapolitanisch, auf jeden Fall nicht kannte. Wenn ich konnte, nicht sprechen konnte. Also das glaube ich schon. Also nach meinem Wissenstand. Weil er die Ruine zeichnet, und das heißt es, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich zitieren, weil er diese Frage nicht im Italienischen, im gemeinsten Italienisch, also im vulgärsten Italienisch, verstanden die nicht, worauf er einfach über mich das Blatt ergriff und das Blatt zerriss, wo er gezeigt hat. Er fragte mich zuerst etwas, das heißt sicher auf Veneto, und das hat natürlich Goethe nicht verstanden, dass Veneto damals ja als eigene Sprache, damals ja noch, heute noch gibt es ja Leute, die sagten, eigentlich sei das Venezianische, also die Möglichkeit einer Staatssprache gewesen, und nur zufällig habe man dann das Toskanische eben gewählt. Ja, und so damit schließen wir die Diskussion über das Referat von Herrn Schmidt-Bergmann e cominciamo la discussione sulla relazione di questo pomeriggio. Chi chiede la parola? Lil. Was die von Ihnen in Erinnerung gebrachten Dinge in der Frankfurter Nationalversammlung angeht, möchte ich an das Buch von Günter Wollstein erinnern, das Großdeutschland der Paulskirche, weil darin ja die verschiedenen deutschen Haltungen gegenüber den nicht-deutschen Gebieten behandelt worden sind und damit dann auch die Vorstellungen, welche verschiedene politische Gruppierungen, auf der einen Seite die Liberalen, die dann ja schon national-liberal werdenden Liberalen, und auf der anderen Seite die Linke, Demokratische Linke von der anderen Nation hatte. Insofern sind wir da an einem Punkt, der also auch unser Thema direkt behandelt, nämlich die Frage der Eindrücke von und der Wertschätzungen, der Einschätzungen, welche die Deutschen von Italien und die Italiener von Deutschland hatten. Und das ist ja gerade auch eine spezifisch trentinische Komplikation 1848-49 in der Frankfurter Nationalversammlung gewesen. Man muss freilich dann auch die Frage stellen, historisches Nationalitätsprinzip, historisches Recht, modernes oder neueres Nationalprinzip und Selbstbestimmungsrecht. Wer hat denn eigentlich die Trentiner und die Triestiner gefragt, ob sie Italiener werden wollten oder Österreicher bleiben wollten? Diese Frage scheint gerade in der Hochstimmung des Jahres 1848-49 von den Vertretern einer großen italienischen Nationalität nicht so recht gestellt worden zu sein. Dann möchte ich sagen, vielleicht um Sie zu provozieren, und das wird dann vielleicht die Diskussion, hoffentlich der Diskussion nicht schaden, ich habe sehr viel aus Ihrem Vortrag gelernt. Das war ein hochinteressantes Panorama, eben dieses austroslawischen und dieses tschechischen und böhmischen Bereiches und der Auswirkungen, die von dort nach Mitteleuropa und nach Italien gegangen sind. Aber mir fehlte eigentlich der Zusammenhang zum Thema unseres Seminars. Und deswegen in der Hinsicht möchte ich Sie jetzt etwas provozieren, dass Sie uns vielleicht dann noch etwas erklären, die Analogien, die Sie andeuteten, zu der Frage der Bilder und der Rezeptionen und der Eindrücke zwischen den Nationen um 1848. Mi scusi, sulla somiglianza. Intanto mi viene in mente, la prima considerazione che mi viene in mente, siamo totalmente, anzi sono totalmente d'accordo sul fatto, ma riprendo il titolo dell'opera di Nemir, fu una rivoluzione di intellettuali. E quindi evidentemente nessuno andò a chiedere ai trentini o ai triestini se volevano essere italiani o meno, eccetera. Ma probabilmente le manifestazioni di piazza di allora credo diedero a questi intellettuali una sorta di patente per poter parlare a nome dei veneziani. Per i veneziani evidentemente era più facile, ma parlare anche a nome dell'Italia, degli italiani. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, l'immagine, se ho ben capito la domanda, l'immagine del mondo tedesco in quei frangenti storici in Italia, ma credo che la risposta valga anche per l'immagine del mondo austriaco, l'immagine del mondo tedesco per gli slavi, per i cechi in particolare. Credo che non ci sia un momento di riflessione generale. La politica, le proposizioni che emergono sono dettate dagli avvenimenti. Ancora una cosa, credo che non si possa capire la storia della rivoluzione in Italia, in Germania e nei territori austriaci. Non si possa capire la rivoluzione all'interno di ciascuna di queste realtà politiche senza far riferimento alle altre. È un gioco, una partita quasi di carattere europeo. Ancora, questo mi allaccio al tentativo di risposta che offrivo prima, mi veniva in mente, proponendo queste brevi riflessioni, che per la prima volta nella storia i mass media e i giornali giocano un ruolo fondamentale, un ruolo che non avevano giocato prima in altre situazioni di emergenza. Pensiamo a quanto i giornali italiani o quello di Tommaseo o altri giornali recepiscono delle discussioni all'interno della Paulskirche, cosa trasmettono e cosa vogliono trasmettere agli intellettuali, ai rivoluzionari, a coloro che guidano. E si gioca, mi pare, questa partita sul piano politico, si gioca sul piano delle emozioni. Non so se non è una risposta esaustiva, ma è piuttosto una linea di risposta sulla quale credo si possa lavorare. Non so se ecco, chiedere ancora una cosa riguardo a un argomento di cui si è trattato questa mattina e a cui ha fatto accenno il professor Ara. Non è un caso che ad esempio in Italia la questione tedesca non venga mai impostata in termini storici lucidi, ma sempre emotivamente tutto si giochi sulla contrapposizione del termine tedesco, austriaco. Stiglitz, non è venuto come parlavamo poc'anzi, Stiglitz, ma anche Tommaseo e Mazzini propongono il termine alemanno, è un termine asettico, no? E no, non germanico, alemanno. E lo stesso Stiglitz, non l'ho ripetuto, ma in quella breve presentazione, quando rifiuta di andare all'assemblea di Francoforte, dice: immaginatevi alemanno tra alemanni, no? Cosa, a proporre così una soluzione di così. I trentini ci sono andati, sì. Wotzelke. Das Referat hat uns in einen Randbereich ohne Zweifel unseres Themas geführt, aber ich glaube doch ein Randbereich, der in vieler Hinsicht für die Diskussion auch des heutigen Vormittages fruchtbar gemacht werden kann. Gerade das Problem, dem wir alle, sowohl die italienischen Kollegen als auch die deutschsprachigen Kollegen, ich sage das jetzt einmal ganz allgemein, ziemlich wenig wissend und neutral gegenüberstehen, der böhmischen Geschichte und der tschechischen Geschichte im Speziellen und der Nationswerdung, die eben gerade 1848 in einem sehr entscheidenden Stadium ist, wo, wie ich meine, parallel zwei Stränge da sind, die wir jetzt als Modell auch durchaus auf die deutsche Geschichte anwenden könnten. Und das kommt jetzt auf das zurück, was Professor Wandroschka am Vormittag gesagt hat, von wegen, mit dem ich nicht übereinstimme in dieser Frage, wie er weiß, mit der Frage des deutschen Nationalismus oder des deutschen Nationalbewusstseins vor der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist in dem Referat sehr gut herausgekommen, dass es auf der einen Seite das, was mit dem Wort böhmisch bezeichnet wird, ein Landesbewusstsein gibt, das nicht national dominiert ist. Böhmisch als dem böhmischen Landen verbunden und mit einem böhmischen Patriotismus versehen, kann sich der Deutsche und der Tscheche in diesem Land fühlen und hat sich vor allem der Adel gefühlt und auch zum Teil das Bürgertum. Was aber gleichzeitig parallel dazu entsteht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und im Zusammenhang mit der Ausbreitung romantischer Ideen, ist ein Nationalismus moderner Prägung und ganz präzise zu unterscheiden versuchen von diesem Landesbewusstsein, der eben ein tschechischer Nationalismus und der ein deutscher Nationalismus bei den Deutschen dieses Raumes ist. Ich glaube, auch diese Unterscheidung könnte man als Modell anwenden und den Reichspatriotismus, von dem heute die Rede war, etwa als eine Form von großen Landesbewusstsein bezeichnen, genauso wie sich ja in also diese Art von Campanilismo, nicht, wo also die Bayern sich in erster Linie als Bayern, nicht, auch das ist heute in den Vorurteilen vormittags angeklungen, in den zitierten Vorurteilen, wo sich die Bayern als in erster Linie als Bayern fühlen und dann erst in zweiter Linie sozusagen als Deutsche, das hängt eben mit diesem sehr stark ausgeprägten Landesbewusstsein, das in vieler Hinsicht auch eine Vorform nationaler Ideen darstellt, zusammen. Naja, das Reichsbewusstsein ist so etwas wie ein großes Überbewusstsein, sozusagen, das aber auch mit, glaube ich, mit ähnlichen Dingen wie dem Landesbewusstsein zu tun hat, das nichts mit Nationalismus, mit Nationalität im modernen Sinne, wie ich es sehe, zu tun hat. Nicht ganz uninteressant, glaube ich, die Tatsache, dass, Herr Professor Rutter wird mir zustimmen, dass im Tschechischen das Wort Tschech sowohl tschechisch als auch böhmisch heißt, nicht? Und das nicht differenziert werden kann. Ich glaube, dass das eine sehr charakteristische Tatsache ist, nicht? Dass man in der eigenen Sprache nicht differenzieren kann. Wir können das von außen her differenzieren. Vielleicht sind wir ähnlich blind, was die deutschen Verhältnisse anlangt. Das nur einmal so am Rande zur Diskussion gestellt. Im Übrigen hängt mit diesem tschechischen Nationalismus, mit der Entwicklung des tschechischen Nationalismus natürlich eine ganze Reihe von Fragen zusammen, die hier aus dem Bereich des Themas herausfallen. Ich möchte also nur zwei Dinge andeuten. Hier wurde sehr stark der Austroslawismus betont. Man muss aber doch sehr deutlich sagen, dass die viel größere historische Rolle der Panslawismus spielt und dass auch der Panslawismus immer als Vorwurf den Tschechen gegenüber, vor allem dann in der liberalen Zeit, gebraucht wird. Nicht ihr, die euch in der Krise des Staates nach Moskau gewendet habt und nicht nach Wien, nach Petersburg gewendet habt und dann später nach Moskau und nicht nach Wien, die ihr also das Vaterland verraten habt an die Russen sozusagen, das kommt im Vorwurf der Liberalen in der späteren Zeit an die Tschechen immer wieder zutage. Und in dem Zusammenhang ist sicher auch die Tatsache zu sehen, dass der zitierte und oft zitierte und immer zitierte Ausspruch Balatskis, dass man Österreich erfinden müsse, wenn es es nicht schon gäbe, später von ihm expressis verbis widerrufen wurde und durch den Ausspruch, wir waren zuerst da, wir, nämlich die Slawen, die Tschechen, wir, schon der moderne Nationalismus, wir waren zuerst da und wir werden nach euch da sein. Nicht? Also da geht dieses Landesbewusstsein in einen sehr expliziten Nationalismus über. Und ich glaube, dass das ein Themenbereich ist, den man jetzt an dieser böhmisch-tschechischen Frage ganz gut studieren kann, der aber auch anwendbar auf die Situation in Deutschland zumindest ist. Auch natürlich in den Randbereichen. Eine zweite Frage, die ich gleich anschließen möchte. Das Interessante daran ist, dass diese Beziehung zwischen Böhmen, zwischen Prag und Mailand, zwischen Böhmen und Italien, etwas ist, was in der österreichischen Sicht eigentlich der Revolution des Jahres 1848 kaum thematisiert wird, auch in der Revolution selbst nicht thematisiert ist. Das ist etwas, was anschließt an einen Gedanken, den Sie heute geäußert haben in Bezug auf das junge Deutschland, dass hier die Rede ist von Polen, Ungarn und Italiener. Nicht? Warum nicht die Tschechen dazwischen, fragt man sich unwillkürlich. Das ist da so etwas ähnlich wie eine selektive Aufmerksamkeit der Revolutionäre für einzelne Völker gibt, aus dem andere Völker ausgeblendet sind. Die Wiener Revolution etwa beginnt zwar mit einer Rede des Adolf Fischhoff im Ständischen Hof, in dem er an die Gemeinsamkeit der Nationalitäten der Habsburger Monarchie appelliert und sagt, jede dieser Nationen hat Vorteile und Nachteile, Fehler, Schwächen, Stärken und wir werden uns alle ausgleichen. Nicht? Da ist also sozusagen das Multinationale in den Vordergrund gestellt und im Laufe der Revolution entwickelt sich dann immer mehr und mehr ein nationales Bewusstsein, das allerdings sehr selektiv ist. Die Wiener Revolutionäre, vor allem die Wiener Studenten, sind sehr positiv den Ungarn gegenüber eingestellt, der ungarischen Revolution gegenüber eingestellt, natürlich klarerweise der deutschen Revolution, das hängt mit dem Nationalgefühl zusammen. Sie haben ein ambivalentes Verhältnis zu der italienischen Frage und zu der italienischen Revolution, da sind sie nicht ganz sicher, sollen wir jetzt dort Truppen hinschicken, um das Vaterland zu verteidigen, wieder dieser Gegensatz zwischen patriotischen Gefühlen und nationalen Gefühlen. Naja, aber die Diskussion ist zuerst, soll man schicken oder soll man die freiheitlichen Bestrebungen unterstützen? Und schließlich wird dann also gegen freiheitlichen Bestrebungen für die nationalen Bestrebungen oder für die patriotischen Bestrebungen entschieden. Können wir diskutieren. Und die Sympathien zum Beispiel für die Prager Revolution, für die Tschechen in Prag sind gleich null. Als der Pfingstaufstand niedergeworfen wird, gibt es in der Wiener Presse kaum ein Echo, kaum ein Wort des Bedauerns über die Niederwerfung dieser Revolution. Ich glaube, dass das also auch eine ganz wesentliche Frage ist, die man bei diesen Bildern der Deutschen und der Italiener im Auge haben müsste, dass es auch noch andere Nationen rundherum gibt, die aus solchen Klischeebildern unterliegen und dass also das Bild der Italiener etwa in den Rahmen einzuordnen ist, unter die Rahmenbedingungen etwa jetzt in der revolutionären Bewegung die Frage, welche dieser Nationen sind revolutionär, nicht die Ungarn gelten als die Revolutionären, die Polen gelten als die Revolutionären, die Italiener, die also eine Tradition haben, gelten als die Revolutionären und andere, wie etwa die Tschechen, die seit 1620 sozusagen still und brav gewesen sind und nicht aufgemuckt haben, die werden also vernachlässigt. Also das ist auch ein, glaube ich, nicht ganz uninteressanter Aspekt, der ein bisschen aus dieser Isolierung, die im Seminar natürlich angelegt ist, der Fixierung auf ein Bild der Deutschen und auf ein Bild der Italiener heraus führen kann und ein bisschen dieses Bild abrunden kann, um das in den richtigen Rahmen auch im Zusammenhang mit den anderen Nationalitäten zu stellen. Tanto grazie del suo intervento. Mi permetterei di obiettare su un fatto. Il termine boemi scompare, no? Il termine col quale si indicano sia i cechi sia i tedeschi, scompare nella pubblicistica politica e nella terminologia dello scontro politico a partire dall'aprile del 1848. Se posso copiare qual diventa un'espressione geografica, almeno per i cechi, prego. Böhmisch rimane per esempio il governo Tafek, il conte Taf, che era di origine irlandese, si sentiva come Böhme e ancora con Rilke, mich rühre zu sehr böhmische Volkesweise, c'è ancora la parola böhmisch e non in senso cechisch, c'è ancora nel nostro secolo, sopravvive. Ma non negli ambienti politici praghesi, questo soltanto. I praghesi sono in parte tedeschi, parte tedeschi e una parte cioè nel centro borghese sono tedeschi, di Altstadt, e intorno sono cechi. E allora ancora adesso dicono, se si domanda che cosa era questo. Er war kein Tscheche und kein Deutscher, er war ein Prager oder er war ein Böhme. Jetzt noch sagen, dass unsere tschechischen Kollegen haben mir das noch gesagt. Das lebt ja noch immer weiter, dass es das auch noch gibt. Und es gibt eben diesen Austroslawismus, das ist ja nicht nur der Balatski, den gibt es ja ebenso auf der anderen Seite von Jelacic, der Kroate. Dieses berühmte Wort, das ja von Voltaire stammt, und sich alle auch darüber lustig machen, weil ja auch das, was Voltaire vom lieben Gott gesagt hat, haben Balatski und Jelacic von Österreich gesagt. Nicht wahr? Das heißt, wenn es es nicht gibt, müsste man ihn erfinden. Das ist ja ein Voltaire-Wort. Und als der Jelacic Wien einnimmt und die Wiener Bürger, gegen die Studenten und die Arbeiter sind, die schwarz-gelb sind, im Gegensatz dazu, dass die Studenten schwarz-rot-gold und die Arbeiter schwarz-rot-gold sind, die jubeln dem Jelacic zu und der sagt, vor allem bleiben wir Österreicher, für wahr, wenn es Österreich nicht gäbe, müsste man es erfinden. Das heißt, er gebraucht auch wieder dieses Voltaire-Wort. Und das geht dann weiter und dann spielen ja doch während der ganzen Zeit des Neo-Absolutismus gehen ja durch die Tschechen als Bachusaren werden sie genannt, die Böhmen werden als Bachusaren genannt, die gehen nach Ungarn, um dort den Neo-Absolutismus durchzuführen. Als Österreicher, also böhmische Österreicher, eben Austroslawen. Und den Austroslawismus gibt es noch die ganze Zeit, auch über den Streit um die Sprachenreformen. Das gibt es, es wird immer weniger, aber es gibt es. Und noch Masaryk hat auch wieder versucht, das zu beleben. Per il movimento ceco e poi per i due partiti, per i vecchi e ciechi e per i giovani ciechi, fu un punto d'onore non parlare più di Boemia. Per i tedeschi che votarono per Francoforte, evidentemente questi tedeschi si definivano tedeschi e pensavano, certamente quelli che stavano a Vienna e che ripresero il potere, evidentemente la parola Boemia ebbe un significato e lo continuerà, credo, ad avere sino al 1918 e poi culturalmente significa ancora qualcosa. Ricordo l'altra sera ricordavo che mia madre è Böhmisch, quindi è una cieca di origine tedesca, quindi lo uso anch'io il termine. E quindi, ma c'è anche un fatto che non si usa, di cui non si vuole parlare adesso. C'è nei Rifacimenti, bei den Volkszählungen wurden sie gerechnet als Deutsche und haben sich fast alle als Deutsche erklärt. Erst durch Hitler ist dann das Judentum in diesen Ländern, das tragischeste Beispiel ist der Historiker, ein historischer Kollege von uns, der sich gegen Berthold Brettholz, der sich gegen die Masaryk-These von den erst als spätere Siedler in den Sudetenraum gekommenen Deutschen wendet. Dieser Jude Berthold Brettholz, der sagt, nein, die Deutschen sind Nachkommen der Markomannen, die damals waren. Und die, im Dritten Reich, die deutschen Germanisten haben diese These als unsinnig abgelehnt. Aber er, der Jude Brettholz, hat das bis zuletzt vertreten und hat dann allerdings sich, er hat sich zuerst mit der Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren und dann unter dem Eindruck des Nationalsozialismus mit der Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Und zum Schluss hat er ein Manuskript hinterlassen, das bezeichnet ihn war von Versailles bis Hitler. Das heißt, der Vorwurf, Schuld daran, dass der Hitler überhaupt so mächtig geworden ist, das war 1936 und schließlich, also noch bevor er nach Böhmen oder nach Österreich kam, da Schuld daran ist Versailles. Nicht, weil er war ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen Versailles. Und diese Situation, diese Einstellung, ich habe den Sohn von ihm gekannt, der ist dann Schweizer Journalist geworden und der hat die noch bis zum Schluss vertreten, etwa bei Höfers Tafelrunde, vielleicht können sich einige noch an ihn erinnern, hat er zum Beispiel noch gegen die Oder-Neiße-Grenze Stellung genommen. Eine tragische Situation, aber das hat es ja noch gegeben, das ist ja noch lebendig gewesen. Grazie, se posso dire, certo queste osservazioni toccano uno dei problemi centrali dei rapporti tra le culture e i gruppi nazionali nella monarchia asburgica. Forse potremmo o potremo, insomma, se resterà tempo, tornare su questo problema, se per adesso riusciamo a rimanere più legati a questa prospettiva pre-quarantottesca, quarantottesca, immediatamente post-quarantottesca, anche perché forse questo sentimenti, queste lacerazioni anche di cui ha parlato il professor Vandruska, che toccano per esempio tanti degli ebrei praghesi, sono più i sentimenti di un'elite che culturalmente è di estrema importanza, che numericamente diventa però anche nello stesso tempo sempre più piccola. Kreisky è uno degli ultimi, insomma. Quindi eventualmente possiamo ritornare su questo tema. Devo dar ratto e devo darle ragione che quando si parla di un ebreo praghese si dice che è un ebreo boemo. In questo ha perfettamente ragione, non ci avevo pensato. No? Non si dice, mi veniva in mente che non si dice né ceco né tedesco, ma si dice un ebreo boemo. Questo ha una... Die Christiane Liermann. Die These von Tomaseo über die natürliche Grenze Italiens an den Alpen, ist die älteren Datums, also schon vor Tomaseo? Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und l'imputazione che si fa a Tommaseo non sono parole di Tommaseo, non è un'idea di Tommaseo, è l'interpretazione dell'Allgemeine Zeitung di questo Wagner, e dice Tommaseo pensa che i confini naturali delle Alpi siano il confine naturale dell'Austria, ma era un'accusa, Tommaseo non si è mai preoccupato di queste, neppure ha avuto anche riletto abbastanza recentemente i Cinque Libri dell'Italia, ma questa idea non viene fuori. Il discorso di Tommaseo rimane sempre su un piano così molto emotivo, sentimentale, l'accusa di essere un'utopia sentimentale probabilmente centrata. D'altra parte il concetto di confine naturale, no, era già ricorso nei primissimi scritti di Mazzini, questo concetto sacrale dei confini assegnati da Dio all'Italia è una cosa abbastanza interessante, che la prima idea di confine naturale compare proprio nella democrazia italiana, anche se poi questo confine alle Alpi è un pochino sfumato, no? Mazzini, che conia anche in questo caso un neologismo, dice che un po' oltre Brunopoli, probabilmente non esisteva allora un termine italiano per Bruneck, Brunico entra credo attraverso Tolomei e il fascismo nel linguaggio italiano, e allora conia questo Brunopoli ed è però un confine imprecisato, cioè non parla delle Alpi ma dice un po' oltre Brunopoli, senza sapere bene. Certo, questo concetto poi è di estrazione democratica e si radica poi progressivamente un po' in tutta l'opinione pubblica italiana. Prego, c'è credo una richiesta da lì e poi il microfono è sempre, forse Cristina Vano. Io avevo una curiosità, lei ha parlato di questa unione industriale cieca, mi piacerebbe saperne qualcosa di più per quanto riguarda la struttura organizzativa, o che tipo di struttura giuridica, se è possibile chiamarla così, aveva, perché se non mi sbaglio fino al 48 anche in questa parte dell'Europa, ad esempio Camera di Commercio, non esistevano ancora. Allora mi incuriosirebbe avere qualche indicazione sulla struttura organizzativa di questo, se era un feraino, cosa fosse, insomma. Lavorando a Praga avevo trovato delle relazioni di alcuni padroni, si posso usare il termine, alcuni padroni di industrie più o meno grandi, più o meno piccole, inviate al Comitato Nazionale. Sicuramente, almeno non abbia fede in quello che le dico io, ma quanto mi hanno detto i praghesi, non esisteva una struttura organizzata. Però nel 48 ci fu qualcuno che prese un'iniziativa privata e chiese ai diversi padroni di queste industrie di mandare una sorta di relazione sulle loro necessità, sulle loro prospettive politiche, economiche, eccetera. Ho avuto la fortuna di imbattermi, ma sono stato anche indirizzato, non perché sono stato particolarmente fortunato, ma storico, uno dei più grandi storici cechi, Václav Žáček, mi ha indirizzato a cercare all'archivio di Praga e ho trovato una relazione conclusiva di questa che viene per la prima volta definita unione industriale, ma è qualcosa che nasce in quelle poche settimane dell'aprile e del maggio del 1948. Ma non c'è un'istituzione? Ecco, è che si presenta nel documento come Promyslova Jednota, quindi come associazione, jednota, unità, sì. E non ha, anche qui una cosa estremamente curiosa e su cui si può riflettere, un nome cieco. La cosa altrettanto curiosa, se non buffa, è che quelle relazioni, non tutte, mi hanno detto che stanno preparando alcuni tesi di laurea su queste relazioni, i titolari di queste industrie, coloro che redassero queste relazioni, avevano tutti nome tedesco. Sì, sì, sono redatti in tedesco. Sono redatti in tedesco. Ma questa unione è presentata con il nome cieco. Questa è una estremamente curioso, no? Tedesco wurde immer Deutschland oder Österreich gemeint, aber niemals die Schweiz. Meine Frage bezieht sich darauf, die natürlichen Grenzen Italiens haben die nie die italienischen Teile der Schweiz inkludiert und warum nicht? Mai documentazione su questo fatto e non ci ho mai riflettuto. Sì, dunque credo, no, si possa dire, forse c'è una zona che è stata compresa nei confini naturali, Svizzera, che è stata compresa nei confini naturali d'Italia dai nazionalisti italiani e non è italiana ma è ladina. Tolomei, alcuni gruppi della Dante Alighieri pensavano di includere nei confini italiani la zona della Valle di Monastero. Questo è un territorio dell'Engadina, ladino, svizzero, che i nazionalisti italiani prima della Prima Guerra Mondiale concepivano come territorio italiano. Per il resto, forse un giorno potremo fare un convegno sul... non so, forse in questo caso il Gegenseitiges Bild forse non sarà possibile, ma un convegno sull'irredentismo e come casomai nella monarchia asburgica, nel mondo tedesco si vedeva l'irredentismo. Per il resto l'unica risposta possibile è che il movimento nazionale italiano e successivamente l'irredentismo italiano è un movimento politico anti-austriaco. Naturalmente la stessa domanda allora potrebbe valere, per esempio, anche se qui non siamo ai confini naturali, con la stessa domanda potrebbe valere per la Corsica, la stessa domanda potrebbe valere per Nizza dopo il 1861. Su questo direi che gli studi che esistono, che sono ancora incompleti sull'irredentismo, hanno posto l'accento su questo aspetto che mi pare estremamente persuasivo, e cioè che per forza di cose l'avversario del movimento nazionale italiano è stato l'impero asburgico, e quindi naturalmente esiste questa contraddizione da un punto di vista, se vogliamo, etnico, linguistico, culturale, che nel irredentismo italiano è presente. E paradossalmente, forse sono state più, anche questo ci porta lontano, certi esponenti della cultura italiana del Canton Ticino, nazionalisti subito prima e subito dopo della Prima Guerra Mondiale, che hanno pensato ad una soluzione del genere, che può essere ricordata attraverso una tragica storia familiare. Carlo Salvioni, che era professore di linguistica comparata all'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, che era un sostenitore di un irredentismo politico e linguistico ticinese, i cui due figli maschi muoiono come volontari nell'esercito italiano, erano cittadini svizzeri combattendo contro l'Austria per la realizzazione di questa specie di utopia paterna. Anche questo naturalmente ci porta in un arco cronologico abbastanza lontano. Mi pare c'è un'altra domanda o due, forse anche se gli interventi ce n'era uno anche più lontano, o sbaglio? No. Ecco, e dopo chiederei un attimo anch'io la parola al dottor Weiss. Nur kurz noch zu den natürlichen Grenzen der Brenner als natürliche Grenze, weil wir jeden Abend in der Via Gazzoletti Abendessen. Antonio Gazzoletti war ja Abgeordneter beim Frankfurter Parlament für Trentino, ähnlich wie Stato. Und Gazzoletti war also nicht für die Brennergrenze, sondern er sah die Grenze bei Saluren. Er hat also unterschieden, damals unterschied man zwischen Welsch-Tirol und Deutsch-Tirol, glaube ich, hieß das, ich weiß nicht mehr genau. Also das waren doch einige wenige, gerade bei Mazzini taucht die Brennergrenze auf, aber gerade die frühen Irredentisten, zu denen man wohl Gazzoletti rechnen muss, sahen die Grenze also mit der Sprachgrenze verbunden. Grazie per questa Ergänzung. Ecco, volevo, ritornando un attimo al problema quarantottesco, forse un'osservazione, una domanda, se il relatore riterrà di rispondere. Ecco, mi sembra che in questa relazione, nella parte iniziale, sia stato preso in considerazione un problema che è molto importante e sul quale purtroppo non c'è stata la possibilità di ottenere una relazione specifica, e all'importanza di questo problema accennavo già ieri, cioè il ruolo che hanno avuto nella stagione quarantottesca le due città italiane dove il problema germanico e in generale il problema dell'est Italia e Germania si è fatto più sentire, e cioè Trento e Trieste. Su Trento esiste qualche studio, io non ne so abbastanza, mi dispiace che Corsini non sia qui questo pomeriggio, indubbiamente un suo intervento su questo problema. Un suo intervento su questo problema, oltre a quello che è stato adesso detto da Weiss, ci sarebbe penso servito per vedere reazioni, rigetto anche se vogliamo dell'opinione pubblica trentina, oppure comunque di una piccola elite politicizzata nazionale nei confronti delle aspirazioni di Francoforte nei confronti anche di terre dell'Italia settentrionale. Ecco, qualche cosa di più forse so posso dire su Trieste. Direi la prima considerazione importante che mi viene da fare dopo aver sentito la relazione è quello che c'è un tedesco, Stiglitz, che nel 1848 attribuisce a Trieste una coscienza nazionale italiana molto più sviluppata di quanto la coscienza nazionale triestina in quel frangente ancora non fosse, se al di là di qualche isolata personalità che opera in genere però al di fuori di Trieste, probabilmente in quegli anni un problema nazionale non sentiva. E quindi è abbastanza interessante sentire questo tedesco trapiantato, o perlomeno che vive così a lungo a Venezia, dire che Trieste e l'Adriatico sono terre italiane e che in particolare questa città, che ancora si sente così cosmopolita, appartiene all'Italia. E quindi è interessante innanzitutto rilevare come direi da parte degli ambienti tedeschi, e questo è visibile anche nella partecipazione tedesca al Parlamento di Francoforte, c'è quasi per quanto riguarda Trieste una specie di guerra preventiva, cioè viene sottolineata la necessità che Trieste costituisca per sempre il porto meridionale della Germania, l'appartenenza di queste zone all'Austria o ad una eventuale Germania nazionale che si fosse formata, mentre in sostanza in questo periodo le rivendicazioni sia triestine ad una autonomia o indipendenza o le rivendicazioni nazionali italiane su Trieste sono estremamente estremamente vaghe oppure addirittura inesistenti. Quindi un problema di Trieste esiste paradossalmente nel 48 nel mondo tedesco, mentre non esiste ancora nel mondo italiano. Ed è questo problema viene in fondo solo successivamente, per esempio anche in chiave storiografica, scoperto e mitizzato dall'irredentismo. La frase famosa di un deputato triestino Francoforte, ecco, va detto che in generale i circoli triestini non erano per nulla interessati, al di là di un piccolo gruppo tedesco che oscilla, ed anche questo sarebbe interessante da vedere. Si parlava, mi pare ieri sera, con il professor Heidenreich, di un nuovo interesse che c'è adesso nella giovane storiografia triestina per la presenza anche culturale, politica tedesca a Trieste. C'è un libro molto interessante di un'allieva di Magris, Silvana De Lugnani, una germanista che si occupa però anche di problemi storico-politici, su quella che è stata la effettiva presenza tedesca a Trieste. E questa presenza già nel 48 è caratterizzata da due filoni diversi, cioè da una parte un piccolo nucleo nazionale germanico ed invece il nucleo tradizionale, diciamo austriaco, asburgico, cosmopolita, con qualche volta anche delle difficoltà di vedere se una persona apparteneva ad uno, all'altro di questi due filoni tedeschi. Per esempio Bruck in questa fase può essere considerato nello stesso tempo germanico ed austriaco, francofortese ed asburgico. Sì. Certo, Amburgo-Trieste, sì. Volevo solo un attimo ritornare alla questione della rappresentanza tedesca a Francoforte, della rappresentanza triestina a Francoforte. I deputati triestini rappresentano poco più di se stessi, perché le elezioni per Francoforte si scontrano con una generale indifferenza della città. E c'è questa famosa frase di un deputato triestino, Hagenauer, che era un negoziante, commerciante, cosmopolita di Trieste, che a Francoforte avrebbe detto, torniamo anche forse su questo interessante concetto della necessità di non confondere idee geografiche con idee politiche. Hagenauer dice, la frase l'ho letta solo citata in italiano, io sono deputato del confine meridionale, sono deputato d'Italia. E la storiografia irredentista ha naturalmente a lungo sostenuto che anche questo negoziante cosmopolita nella città aveva acquistato una coscienza nazionale italiana. Invece questo concetto di Hagenauer di Italia è un concetto meramente geografico, rappresenta una zona che è inserita in una entità geografica italiana dove la gente normalmente parla l'italiano ed in questo senso, ma non in altri, poteva definirsi deputato d'Italia. Grazie. altre richieste di intervento o prego. Sono Giorgio delle Donne. Rispetto alle citazioni usate e abusate dai nazionalisti si potrebbe fare un'antologia, no? Di citazioni tirate fuori, diciamo così, e isolate e stravolte di significato, no? Cioè, non a caso io ricordo che negli atti parlamentari del dibattito per la ratifica dei trattati di Saint-Germain si citava proprio Mazzini, Brunopoli, i confini d'Italia, queste cose. Non a caso Battisti è stato subito liquidato dai fascisti e si potrebbero fare esempi, tanti esempi da questo punto di vista. Volevo però tornare delle riviste, di questi rapporti culturali. Per uno storico fra 100 anni sarà relativamente facile verificare il livello di diffusione dei mass media, perché sia di quelli su carta stampata sia di quelli elettronici, perché per diciamo così valutare la pubblicità hanno inventato tutta una serie di strumenti che permettono di stabilire esattamente quanta gente guarda un canale televisivo, quanta gente guarda un altro canale, quanta gente compra un quotidiano o un settimanale. Quindi per esigenze di questo tipo hanno realizzato strumenti che sicuramente potranno un giorno essere utilizzati per fare ricerche sociologiche, politiche, per quanto riguarda la mentalità. Ma quando noi facciamo analisi di questo tipo per quanto riguarda il Novecento e l'Ottocento, che strumenti abbiamo? Io penso, si parla spesso ad esempio della cultura delle riviste italiane dei primi anni del Novecento, ma dal punto di vista quantitativo tutte queste riviste messe insieme avevano poche centinaia di abbonati. Allora, è vero che una rivista poteva essere letta ovviamente anche da più persone, è vero che bisogna tenere presente anche il livello culturale dell'abbonato, che magari poteva essere a sua volta uno che propagandava poi il contenuto di questi articoli, però è estremamente difficile quantificare, diciamo così, l'importanza poi di queste riviste. C'è però anche da dire che molto spesso queste riviste, che erano frutto di iniziative magari anche personali, diventano a un certo punto fondamentali. Io penso ad esempio all'archivio per l'Alto Adige di Tolomei, che citava più Ara, appunto, in un articolo dei primi anni, delle prime annate, rivendicava appunto la Val Monastero con degli articoli che analizzavano il problema dal punto di vista geografico, ma soprattutto linguistico e politico. E per alcuni anni questa rivista è un'iniziativa personale di Tolomei, e non è molto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Però nel momento in cui l'Alto Adige viene annesso all'Italia, Tolomei viene considerato l'esperto italiano sulle questioni altoatesine, no? Allora molto spesso questo tipo di iniziativa a un certo punto assume tutta un'altra valenza dal punto di vista quantitativo. Allora io volevo chiederle quali possono essere gli strumenti per verificare il livello di circolazione reale di queste riviste, di queste iniziative editoriali, ad esempio. Per quanto riguarda le sue ricerche, appunto, lei ha preso lo spunto per la sua relazione da questo libretto pubblicato nel 1800 appunto sulla possibilità di evidenziare la possibilità di fare un'analisi comparata ad esempio per le diverse realtà europee dell'epoca, no? Però ad esempio questo libretto che lei ha citato, quanto è stato venduto, quanto è stato letto? È possibile verificare il livello di diffusione di queste idee? No, questo per il libro no. Ma ad esempio per i giornali, per il giornale di Tommaseo, questo senz'altro. L'ha fatto Paul Ginsburg nella sua storia della rivoluzione, veneziana del 1848-49. Ad esempio il livello di distribuzione della Fratellanza dei Popoli è molto ampio, nel senso che arriva alle 3.000 copie. E credo per la metà del XIX secolo, vabbè, il momento è particolare, così la tiratura sia piuttosto alta, quindi è immaginabile che il numero di lettori sia piuttosto alto. Certamente quando non si hanno dati di carattere quantitativo si cercano altre cartine di tornasole. Il fatto che l'articolo che questa brossurina di Stiglitz sia stato riportato integralmente dal Gemeine Zeitung mi pare sia significativo, no? E sia a testimoniare dell'importanza almeno che veniva attribuita a questo scritto, importanza magari anche in negativo, comunque della, si ritenne, no, degno di essere pubblicato anche senza l'avallo della redazione. Certamente quello che ha detto è vero e bisogna usare altre documentazioni quando non si hanno possibilità diverse. Grilli, ma io vorrei ritornare un attimo al 48-49 e impostare la domanda su, forse all'inverso, sulla, se si può chiamare così, sulla Deutschlandbild italiana questa volta. Lei ha parlato dell'indirizzo del governo ceco al governo provvisorio di Milano e penso a questo punto va ricordato che il governo milanese, destinatario dell'indirizzo di saluto ceco, fu a sua volta promotore di un indirizzo di saluto all'Assemblea di Francoforte, no? Nel corso del 1848, a cui non fu data risposta da parte dell'Assemblea. Ora abbiamo questo indirizzo di saluto del governo provvisorio milanese, abbiamo rappresentanti sardi e di altri stati italiani a Francoforte. Abbiamo quel bel libro di Federico Curato sul Parlamento, edito ormai tanti anni or sono e difficilmente reperibile purtroppo in certe biblioteche italiane, sul è stato ripubblicato recentemente in questi scritti di storia diplomatica di Curato, perché, sì. Perché a Bologna per esempio, dove ho cercato di, era praticamente introvabile, comunque sì, evidentemente sì. Sul Parlamento di Francoforte appunto è la prima guerra indipendenza italiana. Ora, nell'anno successivo, nel 1849, io, ecco, negli atti parlamentari, nei due volumi degli atti parlamentari della Repubblica Romana, non ho trovato alcun indirizzo di saluto, ma nessun accenno a rapporti concreti con i patrioti tedeschi o col Rumpfparlament di Stoccarda, e credo che neanche negli atti parlamentari della Repubblica Veneta si trovi qualcosa del genere, mentre invece esistono indirizzi di saluto del governo provvisorio, del Premierato Mazziniano, agli ungheresi per esempio, esiste una certa attenzione per questi problemi appunto. Ora, dobbiamo diciamo trarre la conclusione che c'è stata una mancanza di fiducia dei patrioti italiani, in questo caso democratici, nei riguardi delle possibilità di una collaborazione con i tedeschi. Posso, nonostante tutto quanto era successo, nonostante Stiglitz, nonostante così l'aiuto che Tommaseo aveva dato a Stiglitz nel preparare la brossura di cui abbiamo parlato, ebbene, nonostante questo, Sestan ricorda che l'ultimo atto del Tommaseo, e cito, leggo da Sestan, abbandonando Venezia dopo il disperato assedio, fu appunto un appello al sentimento liberale dei tedeschi contro la ritornante e trionfante oppressione austriaca. E quindi si è accennato molto, molto spesso ai sentimenti degli italiani nei confronti dei tedeschi, e ci si è accorti che molto spesso, se possiamo usare questa parola, si è giocato sul termine tedesco, alemanno, eccetera, ma in momenti di crisi Tommaseo amava molto giocare con i miti, se vogliamo ancora usare il verbo giocare, ma si ha ancora fiducia nel sentimento liberale tedesco. Un'altra notazione interessante che può riallanciarsi a quanto si diceva e che avevo dimenticato di leggere, Stiglitz aggiunge un po' scritto al suo volumetto, molto breve, ma merita essere ricordato perché è una sorta di avallo di Mazzini alla politica e alle idee di Tommaseo. Nel momento in cui questo foglio va sotto il torchio, siamo nel maggio del 48, leggo nell'ultimatum di Giuseppe Mazzini un passo in cui il cui concetto, perché di tant'uomo, parmi troppo importante che per me non si abbia a comunicarlo. È una nota all'espressione il crudele tedesco, e cita Mazzini. Prendiamo questa parola nel senso che vi dà sempre il nostro popolo, cioè come sinonimo di austriaco, non di germanico. A proposito, preghiamo anzi i fogli alemanni ad avvertire i loro connazionali che ciò che dicesi di qua delle Alpi contro il nome tedesco è diretto solo contro l'iniquo gabinetto dell'Austria. Non già, come questo per i suoi fini vorrebbe far credere, contro la totalità della generosa nazione germanica, la quale sappiamo avere per noi simpatia e di cui nutriamo la più grande e più meritata stima. Sì. Altri interventi? Allora niente, a questo punto ecco, penso che forse è bene proprio le altre questioni che sono state affacciate rinviarle, portarle casomai sul tavolo di Prodi come auspici di altri seminari, per esempio anche il perché gli ebrei di Trieste maturino una coscienza nazionale italiana, ecco, è un problema estremamente complesso che forse è bene rinviare casomai in chiave comparata ad altro. Intanto comunque abbiamo ripreso questi due argomenti dei quali potremo magari occuparci negli anni futuri. Quindi ringrazio il relatore in particolare, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che sono stati presenti alla discussione. Domani mattina incominciamo alle 9:30, avrei un piacere da chiedere a tutti, 9:30 senza accademische Sfirpel, l'istituto ci aveva invitato a cominciare alle 9:00, penso che tutti la mattina anche riposiamo volentieri un po' di più, questo spostamento di mezz'ora appunto esige il sacrificio del quarto d'ora accademico. Grazie.